Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica, del tutto fuori dal coro. Imprinting gay. Il 27 ottobre del 2008 ricevo la seguente mail. Sai, un mio amico ha un problema grave. Ormai cerchiamo tutti di aiutarlo. Vedi, lui sin da piccolo ha avuto esperienze omosessuali, a 5 anni, poi alle elementari, e poi a 14 anni ha avuto la sua prima strusciatina con una ragazza e dopo numerose esperienze con quest'ultima sa che gli piacciono le donne. Sul campo va meglio, ma sulla masturbazione, oltre al pensiero delle donne, avverte un forte desiderio di masturbarsi su uomini. Io credo che sia stato condizionato da fattori passati, cioè dalle esperienze omosessuali, che hanno contribuito a questo suo particolare orientamento. Comunque sia, tutti siamo etero, però in base al contesto sociale, a fattori, esperienze, eccetera, scegliamo un orientamento piuttosto che un altro. La sua dipendenza sessuale è molto forte, ma lui è convinto di uscirne. E quello che voglio sapere è questo: se ne può uscire? Mi chiarisci le idee? Provo a rispondere. In questa mail sono presenti molti elementi degni di attenzione. Innanzitutto si afferma che tutti siamo etero, però in base al contesto sociale, a fattori, esperienze, eccetera, scegliamo un orientamento piuttosto che un altro. Questa frase, che ha l'apparenza di un luogo comune di buonsenso, contiene in realtà affermazioni del tutto prive di fondamento. Non mi soffermo neppure sul tutti siamo etero, che postula una fantomatica identità etero originaria, ma osservo che nessun gay direbbe di avere scelto di essere gay. L'identità gay non è affatto una scelta, ma una realtà che spesso si fatica ad accettare. Si parla di un bambino che ha avuto esperienze omosessuali a 5 anni e poi alle elementari. Beh, dire che un bambino di 5 anni ha avuto esperienze omosessuali è probabilmente un modo improprio di esprimersi che potrebbe significare due cose completamente diverse. Cioè, che quel bambino ha sviluppato con altri coetanei attività esplorative della sessualità anche in età molto precoce, oppure che quel bambino è stato oggetto di attenzioni sessuali da parte di adulti. Le due situazioni sono intrinsecamente diverse. Al di là della terminologia, si tratta sia in un caso che nell'altro di un problema estremamente serio. Le modalità della scoperta della sessualità e la sistemazione psicologica definitiva delle prime esperienze sessuali, cioè dell'imprinting sessuale, hanno sicuramente un'importanza enorme nello sviluppo della sessualità adulta. Questo significa che ci si può domandare se esperienze sessuali molto precoci possano essere determinanti nella definizione dell'orientamento sessuale. Ora, avere riscontri oggettivi circa il fatto che l'imprinting sessuale possa essere determinante nella definizione dell'orientamento sessuale non è concretamente possibile. Ogni affermazione, sia in positivo che in negativo, resta comunque priva di verifica e in buona sostanza nulla più che un'affermazione di principio. Ciò che invece è possibile riscontrare, controllandolo quindi, è la percezione che l'adulto ha dell'imprinting sessuale come condizionante dell'orientamento sessuale. In altri termini, non possiamo dire se sia o meno condizionante, ma possiamo verificare se sia o meno percepito come condizionante da parte dei singoli in un'età in cui l'orientamento sessuale è oramai definito, anche se talvolta non è accettato. Sulla base dell'esperienza devo osservare che ciò che emerge in chat è legato ovviamente a situazioni di disagio più o meno grave. Quanto non crea problemi non è in genere oggetto di colloquio. Poco importa ad un ragazzo gay se il suo orientamento sessuale derivi o meno da esperienze infantili, se il ricordo di quelle esperienze non crea particolari problemi e se l'essere gay è un fatto ormai accettato. Qualora invece il ricordo risulti sgradevole, problematico, non tranquillamente archiviato nell'ambito di una sistemazione organica del proprio passato, oppure l'omosessualità sia vissuta con ansia o non sia accettata, allora per un ragazzo chiedersi se la sua omosessualità deriva da un imprinting infantile ha un senso preciso, perché una domanda simile tende a identificare delle colpe dalle quali deriverebbe l'omosessualità. In pratica, quando un ragazzo in chat tende a indagare la propria sessualità infantile alla ricerca del perché sono gay, in realtà si chiede di chi è la colpa del fatto che sono gay. Di solito non si identifica nessuna colpa quando l'imprinting sessuale è legato a un'esplorazione sessuale tra ragazzi più o meno coetanei, mentre la colpa viene chiaramente individuata quando l'imprinting sessuale è stato il risultato di un atto di volontà coscientemente compiuto da un individuo molto più grande. Frasi come «però lui non si rendeva nemmeno conto» oppure «però in fondo era un gioco» dimostrano come non sia un comportamento sessuale in sé ad essere considerato colpevole, ma come la colpa venga legata alla consapevolezza piena di ciò che si fa e delle relative conseguenze. Il riconoscimento della colpa di un altro individuo crea in un ragazzo la coscienza di essere vittima di un comportamento colpevole altrui e lo spinge a collegare l'origine del proprio orientamento sessuale al fatto di avere subito il comportamento colpevole di un altro individuo, tipo violenza fisica o psicologica o quantomeno strumentalizzazione cosciente. Ciò crea grossi problemi circa l'accettazione dell'omosessualità, la cui origine non è considerata spontanea, ma è tendenzialmente individuata proprio nell'avere subito violenza. Certo, di gran lunga meno complessi sono i problemi legati all'esplorazione sessuale tra ragazzi più o meno coetanei, che è vissuta come un momento di condivisione tra pari in un'atmosfera di morbosità sessuale infantile o preadolescenziale. Non ha molto senso chiedersi se il fatto che un ragazzo giovanissimo abbia esperienze di esplorazione sessuale con altri ragazzi anziché con ragazze sia la causa del suo orientamento sessuale, o se proprio perché originariamente gay quel ragazzo cerchi esperienze con altri ragazzi piuttosto che con ragazze. Ma certo, tra l'avere vissuto esperienze di esplorazione omosessuale infantile o preadolescenziale fortemente connotate sessualmente, ribadisco questo termine, fortemente connotate sessualmente, e l'orientamento sessuale gay sviluppato in età successiva, esiste quantomeno una correlazione statistica che non è tuttavia facilmente riducibile in rapporti di causa ed effetto. La specificazione fortemente connotato sessualmente è fondamentale perché di norma l'esplorazione sessuale non ha un'autentica connotazione sessuale. La sessualità preadolescenziale e adolescenziale si sviluppa sulla base di due elementi distinti e correlati. Uno è lo sviluppo sessuale fisiologico, cioè la maturazione sessuale fisica di un ragazzo, e l'altro sono le cosiddette atmosfere o aure sessuali. Le atmosfere sessuali sono percepite molto prima che se ne comprenda il senso in modo sufficientemente chiaro. In genere l'elemento fondamentale che connota come sessuale un comportamento è il tabù, cioè il questo non si fa che si manifesta sia in forma esplicita come divieto che in forma implicita come rimozione dell'argomento che non è mai preso in considerazione. La proibizione e il tabù caricano un oggetto o un comportamento di atmosfere sessuali. Ovviamente la proibizione produce la necessità di superarla, ma salvando comunque l'apparenza. Violare il tabù, consacrato da un'atmosfera sessuale forte, è visto come elemento di crescita che deve essere vissuto tra compagni in modo segreto, non coinvolgendo il mondo degli adulti. È la cosiddetta morbosità sessuale preadolescenziale, talvolta adolescenziale. Cioè un contenuto affascina perché è proibito e la proibizione deve essere comunque violata tra pari. Ormai da diversi anni, mancando una vera educazione sessuale e affettiva, l'educazione sessuale dei ragazzi è totalmente delegata alla pornografia e i contenuti della pornografia sono i tipici tabù sessuali. Vedere insieme un film porno in età preadolescenziale ha una dimensione morbosa perché rappresenta la violazione condivisa di un tabù. La morbosità delle trasgressioni le rende momenti carichi di una intensità affettiva e sessuale molto forte. Valga l'esempio dei comportamenti, anche infantili, di esplorazione reciproca della nudità dell'altro, dei primi contatti visivi e non solo con i genitali di un'altra persona, anche in età in cui erezione ed eiaculazione sono ancora cose lontane da scoprire. In una società in cui non ci sono tabù sessuali connessi alla nudità, che è accettata come una cosa comune, la nudità perde il suo carattere morboso perché manca l'aura sessuale intorno ad essa. In epoche e in società diverse, gli stessi fatti possono essere vissuti in modo morboso o addirittura senza alcuna implicazione sessuale a seconda dell'ambiente. Classico è l'esempio del nudo che ha subito nel corso della storia una progressiva liberalizzazione. Sottolineo un fatto paradossale. Il nudo per i gay ha normalmente una valenza molto meno morbosa che per gli etero. La segregazione per sesso, se toglie ai ragazzi etero la possibilità di vedere ragazze nude, per esempio in ambiente sportivo, offre invece ai ragazzi gay lo spettacolo comune della nudità di altri ragazzi. Per un ragazzo etero vedere una ragazza nuda è molto più difficile di quanto non sia per un ragazzo gay vedere un ragazzo nudo, e di conseguenza il senso di trasgressione che prova un ragazzo etero nello spiare la nudità di una ragazza è più forte di quello che prova un gay nello spiare un ragazzo. Le attività sportive in comune, divenute ormai estremamente diffuse, hanno praticamente tolto alla nudità di un ragazzo gran parte della morbosità che essa poteva rivestire in precedenza per i gay. In età infantile e al limite preadolescenziale, quando la nudità non è un'esperienza comune, essa può rivestire caratteri di morbosità. Ma da quando esiste un'attività sportiva in comune, diciamo dagli 11 anni in poi, la morbosità sessuale si manifesta in trasgressioni che vanno oltre la dimensione del nudo. Si tratta, nella grande maggioranza, di comportamenti esclusivamente imitativi dei modelli proposti dalla pornografia, messi in pratica da ragazzi non ancora sessualmente maturi. Questi comportamenti, col passare del tempo e con la maturazione sessuale e fisiologica, assumono via via, oppure possono assumere, una connotazione autenticamente sessuale. Tuttavia, nella grande maggioranza dei casi, l'esplorazione sessuale reciproca serve a dare ad un ragazzo la dimensione della sua maturazione sessuale, la cui realizzazione è percepita tipicamente attraverso la crescita dei peli pubblici e la dimensione del pene. I confronti sulla dimensione del pene in età preadolescenziale sono comunissimi e non hanno nulla a che vedere con l'omosessualità. L'esplorazione sessuale reciproca, in buona sostanza, non è neppure avvertita come una forma di imprinting sessuale, perché in essa prevale l'elemento di ricerca della tranquillità in rapporto al proprio sviluppo sessuale. Riassumendo, salvo rare eccezioni, l'esplorazione sessuale reciproca in età infantile o preadolescenziale non è generalmente caricata di valenze autenticamente sessuali e non è vissuta come un imprinting sessuale e realisticamente non ha un peso nella determinazione dell'orientamento sessuale. Naturalmente, nei casi in cui l'enfatizzazione del contenuto sessuale è molto forte, queste esperienze possono essere vissute come un vero imprinting e in quel caso l'ipotesi che possano essere correlate senza un preciso rapporto di causa ed effetto con l'orientamento sessuale adulto è un'ipotesi realistica. Nel caso in cui un ragazzo si senta vittima di interessi sessuali da parte di adulti, gli eventuali contatti sessuali subiti non solo sono vissuti come un imprinting sessuale, ma come un imprinting negativo e violento. In questi casi, per i ragazzi che si scoprono gay, l'accettazione dell'omosessualità sarà molto problematica perché sarà vista come l'esito di un imprinting violento nel quale si è rimasti vittima e che ha interrotto e comunque deviato il normale corso della maturazione della sessualità. Che ciò sia oggettivamente vero o non lo sia, poco conta, perché è la percezione del fatto che crea il disagio. Quanto al fatto riportato nella mail che un ragazzo al quale piacciono le donne provi forti desideri di masturbarsi pensando agli uomini, sono portato a pensare, come ho detto più volte, che si tratti di un ragazzo che tende a scappare dalla sua identità. Potrebbe anche avere un senso l'ipotesi di una bisessualità basata sul fatto che un ragazzo si masturba sia pensando agli uomini che pensando alle donne, che è una caratteristica della bisessualità intermedia. Ma il quadro complessivo e il forte desiderio, questa è l'espressione, di masturbarsi pensando agli uomini, ricorda da vicino le situazioni tipiche dei ragazzi che sono in fuga dall'omosessualità. Questa è la voce del progetto. Una voce libera e laica, del tutto fuori dal coro.